Animati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io sono le cose le faccio, volo basso e schivo al sasso. Eccezionale. Palla in aria, ancora Kos col primo rete, il vantaggio con Ninga dell'Olympiakos. Pirlo per girare palla alla Juve, Pirlo al cross teso verso Llorente, palla rete, ha pareggiato la Juve, palla di Llorente, tocca Roberto, 2-2, la Juve in corsa. La mette di mezzo, buono il pallone, Pogba cerca di dare ancora, Pogba, rete, rete, rete, 3-2. Chi era tra voi in studio che diceva che Pirlo e Pogba erano un problema? Se la Juventus riuscirà a concretizzare appena di più le occasioni da rete, sarà dura per chi dovrà giocarci contro, scrive Massimo da Verbania. Franco Pientani dal nostro autore, Claudia Schiatto in redazione, Roberto Scaltritti in regia, voi al telefono 800 24 00 24. Pardo arriva dopo. C'è Pallotta, che una notizia mi intriga tantissimo, poi parliamo naturalmente anche di Roma, che vorrebbe giocare Roma-Barcellona o Roma-Bayern Monaco al Colosseo. Come la vedete questa? Intanto stasera la Roma gioca all'Allianz Arena, dovrà stare attenta a non fare una figuraccia. Pallotta, sempre più re di Roma, vorrebbe vendere questa partita al Colosseo, $25 in tutto il mondo per 300 milioni di spettatori potenziali, l'ha detto la CNN, e poi creare una fondazione per proteggere le antichità della città, pensate questa. Intanto è la Juventus che al 20° secondo tempo era... questi sono i sogni di Pallotta. Poi la realtà è la Champions League. La Roma gioca all'Allianz Arena, deve stare attenta ad evitare una brutta figura, quantomeno. La Juventus al 20° del secondo tempo ieri a Torino era più morta che viva. E al 94° invece si è fumata la possibilità di essere, non dico quasi qualificata perché non è così, però di essere in una posizione molto più comoda di quella in cui si trova. 3-2. Il finale che regala all'Olympiakos, che è una squadra molto seria, Mitchell mi sembra davvero un bravo allenatore, è una squadra che magari non ha grandi potenzialità o grandi giocatori, però pensa in grande, e con la Juventus è in vantaggio potenziale perché per effetto del doppio confronto. Adesso la Juventus deve per forza vincere a Malmo in Svezia, dove l'Atletico Madrid ha segnato un gol per tempo vincendo 2-0. È fortunata la Juventus perché nel prossimo turno, mentre volerà in Svezia con l'obbligo di vincere, l'Olympiakos dovrà giocare sul campo dell'Atletico Madrid, che vorrà a tutti i costi conquistare al Calderon la qualificazione. A quel punto, il 9 dicembre, la Juventus avrà l'Atletico Madrid in casa. Se le cose dovessero andare bene, Allegri dice possiamo arrivare primi nel girone, senz'altro la possibilità di qualificarsi con un Atletico che potrebbe arrivare lì con la qualificazione già in tasca. Altrimenti, se l'Olympiakos dovesse fare un colpo al Calderon, bisognerà rifare tutti i conti. Pardo arriva dopo, voi arrivate subito, abbiamo tanti ospiti. 800 24 00 24, il numero verde, traffico. Llorente la mette in mezzo, buono il pallone, Pogba cerca di darla ancora, Pogba, rete, rete, rete, 3-2. Tutti convocati. Molto contento di quello che hanno fatto, Credo che tecnicamente abbiamo giocato una buona partita, abbiamo creato molto, 10 palle gol. Credo che in due partite tra noi e loro ci sia stata un'enormità di palle gol create. Purtroppo le abbiamo sbagliate, i ragazzi sono stati bravi che a mezz'ora alla fine praticamente eravamo eliminati. Invece in questo momento credo che siamo in una buona posizione, ancora in corsa per il primo posto, quindi ora pensiamo al Parma, poi ci prepareremo per la prossima sfida a Malmo. Al 61esimo sicuramente c'era la possibilità che la sfiducia e lo scorramento insomma ci attanagliasse, no? Diciamo così. Però dico anche che nel cuor mio insomma speravo che potesse verificarsi questo miracolo sportivo, perché era un qualcosa che la sorte ci doveva, no? Per quello fatto all'andata e per quello che stavamo facendo stasera. Maurizio Crosetti, scorramento si scrive con una R sola, giusto? Vabbè, ma l'importante è non averlo dentro lo scorramento, perché ci sia una R, due R. Beh, spiegalo a Buffon. È talmente smisurato quando gioca, quando parla, quando para, che mette, essendo un generoso anche nelle sue gesta tecniche, mette sempre qualcosa in più rispetto a qualcosa in meno, quindi una R in più ci sta, dai. Ci sta. Maurizio Crosetti, La Repubblica, grazie di essere con noi come sempre. La più illuminata, una delle più illuminate tra le nostre ascoltatrici invece è Sara, che scrive tutti i giorni e dà ragione quando scrive: se non vinciamo contro il Malmo vuol dire che non siamo da Champions, dura verità, questo è vero. Con il cuore in gola, con la tassa pagata al cambiamento di modulo, con due gol presi su palla inattiva, come dici tu che sei bravo, con l'ingresso di Morata, con il cuore e con lo scorramento che non è subentrato, la Juventus rimane in vita. Mau. Sì, diciamo Juve terrorizzata, mezzo salvata, nel senso che ha avuto bisogno di precipitare di nuovo in fondo al sacco per dire oibò, stavolta proviamo a uscire di qui. Ed è uscita con armi antiche in fondo, no? L'orgoglio, la disperazione che produce paradossalmente tranquillità e non nevrosi, no? Spesso la paura ti paralizza e all'inizio lo si vede, specialmente in Europa. E quando invece hai perso tutto, allora comincia a guadagnare, e la Juve c'è riuscita, anche perché è una squadra che comunque di risorse non è che non ne abbia. Palle gol ne ha create, poi neanche sbagliate, poi ha sbagliato un paio di interventi difensivi che sono costati carissimi, però ci sta, questa vittoria ci sta davvero, ecco. Sì, ci sta davvero. Come previsto, meglio con Llorente che con Morata, anche se per Tevez innanzitutto, anche se Tevez non sembra avere più tanta benzina, ed è il giocatore chiave di questa Juventus, che di giocatori chiave un po' sottotono ne ha molti. Sì, è così, diciamo che Llorente pensa alla squadra, Morata pensa a Morata e alla rete. Sono due calciatori, due attaccanti diversi, non facilmente sostituibili, perché non sono uno l'omologo dell'altro, l'omologo tattico dell'altro. Di sicuro Tevez in questo momento si giova poco dell'uno e anche dell'altro, anche se Llorente gioca di più con Tevez rispetto a Morata, che è un po' più egoista, perché è stanco, perché anche nei nuovi schemi deve partire più da lontano, perché non può, non ha 20 anni, perché non è un alieno, non è un cyborg, ma è un grandissimo giocatore trentenne, ultra trentenne, quindi ci sta che rifiati un attimo, insomma. Sì, sei stato al bar stamattina a prendere il cappuccio, no? Immagino. Io bevo il tè a casa. Il tè a casa, sono no, un italiano un po' atipico, sì. No, io sono passato di lì e le preoccupazioni degli juventini sono gli esterni che non saltano l'uomo, l'assenza di esterni, questo modulo che fa un po' paura perché rompe gli schemi del passato, taglia i ponti con la Juventus di Conte. Sì, la Juventus di Conte, se fosse rimasto Conte, avrebbe lavorato sugli esterni per arrivare ai quattro in linea dietro, sì, che sono un modulo più europeo, questo lo sappiamo. Dopodiché Allegri si è rotto Evra, qualcosa non ha ancora funzionato, Barzagli è sparito, non si capisce dove sia, non è un esterno ma è il miglior difensore italiano degli ultimi 2 anni, e quindi ieri comunque aveva Lichtsteiner sulla fascia destra, che non è un difensore di ruolo, e dall'altra parte Asamoah, che nasce nell'Udinese centrocampista, sì, e il meglio di se lo dà come esterno di centrocampo, quindi indubbiamente se li ha un po' inventati. Il modulo dipende sempre dai giocatori, qualunque modulo, e anche d'accordo. La chimera dei tre difensori diventa in 5 quando si difende, quindi insomma io su questi numeretti. Ma guarda, ti abbraccio fortissimo, perché questi numeretti io li detesto. Se mi chiedi con che modulo gioca la Roma, io non te lo so dire. Con la Juventus. Ieri sera il modulo della Juve è stato il modulo 2, palle così. Sì, due palle, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Tanto Allegri pensa a vincere il girone, tutto sommato non è messo malissimo, anche per una questione di chimica, perché è vero, deve andare in Svezia a vincere, e mettere due vittorie consecutive in Champions League per la Juventus sarebbe una piccola impresa, visto il recente passato. Poi a Torino il 9 di dicembre, in clima prenatalizio, potrebbe essere un Atletico già qualificato. Eh sì, si giocherà tutto in Svezia e quasi tutto, cioè quasi tutto in Svezia e quasi tutto poi contro i vice campioni d'Europa, che potrebbero arrivare in posizione più serena a Torino, ma non è una squadra che poi alla fine fa i calcoli o concede, anche perché comunque tutti vogliono vincere il girone per evitare un ottavo di finale improbo. Quindi la Juve si è rimessa in carreggiata. Certo, sarebbe una beffa terribile se alla fine, facendo di conto col pallottoliere del gol, mancasse un gol il rigore di Vidal. Però la Juve ha tutte le, come dire, le armi, le condizioni per non arrivare al computo del 3-3, 2-2, insomma, può vincere due partite. E la prossima non ci sono dubbi, anche se al nord la Juve ha una tradizione recente non proprio brillantissima. Non prende mai il Nobel in Svezia la Juve. Non piglia mai il Nobel, ma ti rubo che bella. Ti rubo un'ultima considerazione a proposito del discorso due palle così. Vidal da fuori classe a potenziale problema, Pirlo in lento recupero, Allegri lo sta aspettando come da pronostico. Mi sembra ci siano troppi guai in una volta. Tevez che sta finendo la benzina, Morata che forse ha ragione chi dice può essere alternativa a Tevez ma non il compagno di squadra di reparto ideale di Tevez. Insomma, mi sembra una Juventus che con gli attributi di cui sopra è riuscita a mascherare non pochissimi problemi. Noi non dobbiamo dimenticare che la Juve è un enorme limone che è stato spremuto in maniera selvaggia con i risultati eccezionali da Conte. Questo limone ha ancora molto succo, ma non tutto il succo di prima, e ci sono giocatori che hanno spremuto loro stessi ancora di più. Cioè il limone più spremuto di tutti in questi anni è Vidal, che continua adesso, l'ha giocato con una gamba mezza scassata alla fine dello scorso campionato, un mondiale e un pezzo del precampionato compresa la nazionale. Non è Mandrake, è un grande giocatore, non è nemmeno un trequartista peraltro nella sua posizione nuova, ieri sera mi è sembrato un po' così, è un giocatore stanco, un po' fuori forma, forse anche un po', come dire, frastornato da le notti bianche o qualcos'altro, e ha bisogno semplicemente di rifiatare. Degli altri abbiamo detto, è la Juve che ha un po' di ruggine da qualche parte, però qui in Piemonte si dà il minio, che sarebbe l'antiruggine, la vernice rossa, quindi adesso Allegri darà una mano di minio alla cancellata della Juve e poi la lucciderà con la vernice che le deve servire per arrivare fino agli ottavi. Adesso ho finito i funghi allucinogeni e dunque anche le metafore. Intanto vediamo di andare a prendere se non il Nobel 3 punti in Svezia. Almeno quelli. Ciao Mau, grazie. Ciao. Ti abbraccio, grazie Maurizio Crosetti. 800 24 00 24, il numero verde. Massimiliano da Napoli, buongiorno. Buongiorno e grazie della convocazione. Grazie. Le volevo solo far notare che è una mia considerazione, no? Che da quando la Juventus con Allegri non attacca più sugli esterni, non ci sono più tagli né inserimenti. Sta di Lynch Steiner che diciamo fa anche un po' a cava sua e quindi taglia sempre dentro, ma soprattutto Samoare sta sempre bloccato dietro. Pirlo non gioca più bene perché non ci sono questi tagli. Beh, Pirlo sta recuperando lentamente la condizione, Sì, vabbè, ma Allegri può giocare anche da fermo. Beh, insomma, nel calcio di oggi da fermo non può giocare nessuno, io temo. No, ma io invece penso che temo di no. Però il fatto è che insomma questo modulo non si appoggia tanto sugli esterni. Allegri anche al Milan non e come pensiero non è un allenatore che gioca molto sugli esterni. Questo rombo è portato a convogliare il gioco nella zona centrale, ad usare altro tipo di armi. Certamente è chiaro che insomma Asamoah è un centrocampista inventato per esigenze terzino. Lichtsteiner non è certo quello che ti salta l'uomo, va sul fondo, mette in mezzo i palloni, almeno in linea di massima. Degli esterni la Juventus non ce li ha. Magari le servirebbe uno straccio di Giaccherini, per dire, per provare a far arrivare qualche pallone in mezzo. È una Juve che ha avuto coraggio, Allegri ha avuto coraggio a cambiare pelle nella partita più importante di questo inizio di stagione. è andata bene per il rotto della cuffia e con fortuna, diciamo la verità, però gli è andata bene. Giulio Bari, buongiorno. Buongiorno Salveri, eccomi, il tifoso dell'Atletico Madrid. Tifoso, eccolo qua. rieccomi, nonostante si ricorda i timori iniziali per una squadra smembrata, però alla fine siamo lì. Sì, vabbè, ma su questo non c'erano grossi dubbi, no? Sì, però gran parte della fortuna di questo Atletico si fonda sulla sua solidità difensiva. Ma l'Atletico sì, batterà l'Olympiacos al Calderon facendo un enorme favore alla Juve? Giulio? Sì, ci spero. Anche se sarà una partita estremamente difficile, perché loro hanno una maniera di giocare molto spagnola, con Mitchell come allenatore che fa del possesso palla la sua virtù. E soprattutto l'Atletico ha un grosso handicap, perché ha tutta la difesa è diffidata, e quindi in caso di ammonizione Godin, Miranda, Juanfran e Siqueira rischierebbero di saltare poi la partita di Torino. Quindi vedi che le stelle stanno dicendo almeno un pochino bene alla Juventus, almeno dal 21esimo del secondo tempo di ieri sera. Grazie Giulio, a presto. Tutti convocati. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti, per un gioco antico con moderni miti. Tripudio di cori, bandieri e vessilli. Vabbè, si diamo retta a tutti, anche a chi scrive, non ci sto più dentro, fateci sentire la poesia. Ce la tiriamo dentro fino alla fine della stagione sportiva, io già vi avverto. Ma non sono certo, è lui il mio amore, proprio Roberto. Per favore, scrivete voi a Piantanila, poi vi do l'indirizzo privato di posta elettronica, scrivetegli per favore, salvatemi. Maurizio, certo Maurizio scrive: un rigore così decisivo non si fa battere a un Vidal in questo momento opaco. Io aggiungerei che un Vidal in un momento così opaco non deve nemmeno arrivare al 94esimo, quindi forse sarebbe stato necessario provvedere prima alla sostituzione, magari quel rigore l'avrebbe tirato un altro un po' più in condizione, però c'è molta dietrologia in tutto questo. Ciao Pierluigi Pardo. Questo è un gioco antico, con moderni miti. 14, guarda, 30, te le do, pronto. Sì, è tutto pronto. Volevo sponsorizzare la tua candidatura per la telecronaca di Roma Bar Monaco al Colosseo, o Roma Barcellona, ma in questo momento Barcellona. Ma ho appena fatto un tweet, no, a parte che se non avete idea di trattini adesso, chiaramente deve essere visto tutto. Ma riportare il Colosseo come era nell'Ottocento, quindi con la copertura, io non c'ero, sono stato scelto. Non c'eri? Però insomma, no, non c'ero. Però ripristinare una sorta di pavimentazione originaria con la parte quella sotto che diventa museo, e a quel punto hai un'arena vera e propria nella quale si possono fare delle cose. Insomma, l'esempio dell'Arena di Verona è eccezionale da questo punto di vista, anche se non sono esperto di beni culturali, di belle arti, però insomma in generale io penso che dalla piramide del Louvre in poi qua alla fine in generale la modernità è rispettare i monumenti, ma trovare anche un modo per farli vivere. Siccome io sono nato in una città, sono fiero e orgoglioso di essere nato in una città stupenda nella quale ogni tanto trovano una cosa di 20 secoli prima, e quindi smettono di scavare perché non si può, giustamente da un certo punto di vista, no? Però poi bisogna, cioè, i monumenti vanno fatti vivere, quindi con rispetto con Roma Bar Monaco. Intanto stasera la Roma gioca all'Allianz Arena, altra storia, altro film, realtà e tutto quanto, però molto visionario James Pallotta. $25 in pay per view in tutto il mondo, con ovviamente un disastro di spettatori potenziali, ha già fatto i conti, 300 milioni di persone che vorrebbero vedere questa partita, e poi si fa una bella fondazione per proteggere l'antichità di Roma, mamma mia. È bellissima. No, ma mi piace un sacco, infatti. Vorrei parlare solo di questo e non della Juventus, invece parliamo della Juventus. Cioè, ti ricordi Pink Floyd a Venezia? Sì. È chiaro che ci sono tutte le volte che c'è una contaminazione fra monumenti, che chiaramente non è che dici poi se si rovina lo rifai. Devi avere il massimo del rispetto. Però insomma, con tutte le precauzioni del caso, perché no? Cioè, il Circo Massimo ha ospitato appunto intanto Piera ha rischiato di rimanere di marmo la Juventus ieri sera, eh? Ah beh, certo, questo sì, questo è completamente un altro discorso, però la reazione c'è stata. È chiaro che questo rigore sbagliato all'ultimo minuto tiene tutto un po' più aperto, però io penso che la Juve adesso abbia una è padrona del suo destino, deve fare 4 punti. Se fa 4 punti passa il turno. Sì, ma paradossalmente non è messo malissimo. Al 99%. Per molte piccole cose non mi sembra messa male, compreso il calendario. È chiaro, devi andare a vincere in Svezia, però se non vai a vincere in Svezia, dove la Juventus, ha detto prima Crosetti, normalmente non da molto tempo al nord non prende premi Nobel. Se non vai a vincere in Svezia non meriti di passare il turno, appunto, e questo è scontato. Detto questo, si è vista secondo me una buona squadra che è stata capace di reagire nelle difficoltà e che complessivamente ha meritato la vittoria. Si è vista anche secondo me comunque una sorta di stella nera europea, perché certe cose in Italia non succedono, soprattutto alla Juventus Stadium, per certe cose all'estero succedono. Forse perché il calcio europeo è migliore del nostro, non lo so, cioè, però l'Olympiacos non è che mi è stata una squadra clamorosa, eppure è riuscita a trovare 3-4 giocate, 3-4 occasioni, in due ha fatto gol, cosa che in Italia non succede. In Italia una partita equivalente con la squadra di metà classifica, difficilmente la Juve subisce due gol in casa, quindi vuol dire forse che sono più forti all'estero, e questo è abbastanza inquietante, o forse che c'è un po' di complesso europeo, un po' di paura, un po' d'ansia la prestazione, perché comunque è chiaro che il campionato te la giochi su 38 partite, certo, puoi anche sbagliare. In Europa le partite sono 6 nel girone. Sì, no, ma poi sai, alla fine, cioè adesso c'è l'Olympiacos che è una signora squadra, si è confermata una squadra seria, va a giocare al Calderon con un Atletico Madrid che vorrà centrare lì la qualificazione, poi potrebbe arrivare a Torino già qualificato. Prima un ascoltatore ricordava che ha l'intera linea difensiva diffidata, insomma sono un sacco di piccole stelline. Cercando di andare avanti di una settimana, una partita, una sola cosa non farei più di tanto affidamento, cioè sul possibile biscotto all'ultima giornata partita, in Svezia. No, perché sai, poi alla fine quel ragionamento, se la Juve vince in Svezia e l'Atletico vince in casa, che sono i risultati più probabili, il ragionamento e il discorso lo faremo tutti, no? Che a quel punto con un pareggio l'Atletico passa per primo e la Juve passa per seconda. Però ecco, su quello non lo so, perché della mentalità degli spagnoli magari ci può essere dell'altro, e perché poi comunque la Juve, pur con tutte le sue fragilità, le fragilità del calcio italiano, è la classica squadra che comunque sia uno se può... diciamo la lascia a casa, no? Un avversario se può comunque la elimina, perché sa che comunque delle qualità ci sono, quindi insomma vabbè, adesso abbiamo corso un po'. È chiaro che col rigore segnato sarebbe stata un'altra storia, perché la Juve dicendo a Malmo passava al turno. Sì, sì. Comunque possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che, prima facevo questa considerazione, in questo momento Vidal è un problema, la Juve qualche problema ce l'ha sparso qua e là, compresa con una condizione di Tevez che è in declino, compreso Pirlo che sta lentamente recuperando. Ieri ha giocato la miglior partita dell'anno, della stagione, fin qui naturalmente. Vidal non è mai un problema, posso dirlo, 43 gol con la Juve. Ma in questo momento però sì, secondo me ha sbagliato il rigore, ma un ascoltatore scriveva un rigore decisivo non si fa battere ad un Vidal in questo momento opaco. Io credo che la gerarchia dei rigoristi sia la gerarchia dei rigoristi e vada rispettata, però forse si poteva risparmiargli, diciamo così, almeno gli ultimi 20 se non 30 minuti. A me non è piaciuta, ti dico, ma proprio parliamo veramente del stesso degli angeli, non mi è piaciuta, e mi ha fatto quando ho visto che stava lì a fare il pubblico prima di girare il rigore, mi ha fatto un po' impressione, perché l'ho interpretato come un segnale di personalità. Però poi alla fine, non so, sei presente quell'immagine lì prima di girare il rigore, ha chiesto il supporto al pubblico come se fosse già tutto da festeggiare. Sì. Poi manca la controprova, insomma, non possiamo dire che fosse riconcentrato, l'ha tirato male, Roberto è stato bravissimo. La palla è andata sulla traversa e gli ha detto anche male. Sicuramente pesa, insomma, la Juve diciamo che un pizzico di fortuna ce l'aveva avuto sulla traiettoria del 2-2, vista strettamente balistico, secondo me la Juve ha meritato di vincere la partita, però dico, da un punto di vista diciamo di traiettorie, geometrie euclidee cartesiane, aveva avuto un pizzico di fortuna sul gol del 2-2 con quella carambolona e sicuramente non è stata fortunata sulla carambola del rigore. Sì, preferisci partire da Messina o da Lecco? Preferisco partire da? Messina o dalla provincia di Lecco? Con gli ascoltatori. Faccio io, Giuseppe Messina. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Magari lì c'è il sole, qui siamo al buio. No, è piovuta per tutta la mattinata purtroppo. Adesso c'è un po' di sole, ma c'è il vento, quindi molto molto volubile. Dica. E allora, io sono con Allegri. Sono convinto che la Juve vincerà il girone, perché vince Malmo e batte l'Atletico tranquillamente, perché io negli ultimi 3 anni ho visto soltanto il Bayern superiore alla Juventus in campo europeo, e per cui sono convinto che questa squadra è fortissima. Sì. È mancata solo un po' di fortuna, forse anche ieri mancava la fortuna. No, ma ieri ne ha avuta la fortuna, però Giuseppe, va bene, mi perdoni, va bene il tifo, mi piace la morire, però solo il Bayern superiore alla Juventus mi sembra tantissimissima roba. Accolgo la provocazione, perché è vero che solo il Bayern superiore alla Juventus. Il problema è che la Juventus non è stata superiore a tante squadre inferiori. Cioè, se tu prendi l'ultimo anno e mezzo, diciamo gli ultimi 2 anni e mezzo, ritorno in Europa, è vera questa cosa qui, che soltanto il Bayern ha ridicolizzato la Juve, ridicolizzato la parola forte, insomma ha messo sotto nettamente, ha dominato la Juve nelle 2 partite, e mi riferisco ovviamente ai quarti di finale 2 anni fa, quando poi il Bayern sappiamo quello che ha fatto. E il problema però non è stato quello, non è stato tanto essere usciti col Bayern, il problema è stato non essere riusciti a imporre una superiorità che doveva essere sfruttata con una serie di squadre come il Galatasaray, come ovviamente il Copenaghen, con 2 punti buttati l'anno scorso. E anche in questo girone, insomma, se tu pensi che nello scontro diretto con l'Olympiacos, diciamo, se ci fosse stato uno scontro diretto da quarti di finale, la Juve sarebbe fuori, certo, ma anche così questo è un fattore di rischio, perché in caso di arrivo a pari punti, che mi sembra abbastanza improbabile, però sappiamo tutti come nel confronto diretto la Juventus è perdente rispetto all'Olympiacos. Tutti convocati. Che fa parte del gioco, fa parte della proprio lavoro, trovare ovviamente delle squadre molto forti, e quindi sapevamo di trovare delle difficoltà, mai pensato di dare dimissioni, assolutamente. Sappiamo che il Galatasaray è una società importante con tantissimi tifosi, e sappiamo che l'Europa è importante, sappiamo che dobbiamo confrontarci con le grandi squadre. Come hai fatto stasera, viso aperto, non possiamo rimproverare nulla ai giocatori, ma l'obiettivo principale, lo ripeto, è il campionato. Abbiamo preso il 3° gol e lì abbiamo perso anche un po' di fiducia, ma la squadra, secondo me, ha dato tutto quello che poteva dare, è stata in campo, ha lottato. È chiaro che poi ci sono gli errori, ma gli errori ci stanno nel calcio, l'importante è capire dove arrivano questi errori e cercare di non ripetere. Queste partite servono per far rinnamorare di te il presidente Florentino Perez, perché adesso si parla anche di un possibile rinnovo di contratto, quando ti stava per cacciare invece prima della finale dell'anno scorso. Ma questo non è vero, questa è una balla atomica che mi stava per cacciare. Si è alzato il sopracciglio. Il rapporto è molto buono, quindi si va avanti, insomma, del contratto ne parleremo più avanti, ora non credo che è il momento. Te lo chiedevo perché hai mai pensato di chiudere la carriera qui? È una volontà? Mi trovo bene, adesso mi trovo bene perché sono in un grandissimo club con dei grandissimi giocatori, per cui al momento tutto è perfetto. Allora, balla atomica di Carletto Ancelotti, che era passato il turno vincendo col minimo sforzo 1-0 con un Liverpool al momento improponibile, così come improponibile mi sembra il Galatasaray di Prandelli, che ne ha beccati altri 4 e fanno 13 nelle 4 gare giocate di Champions League, dal Borussia Dortmund di Ciro Immobile, però Prandelli rimane lì. Pierluigi. Sì, diciamo che per quanto riguarda il Liverpool, ieri non è stata colpa di Balotelli perché non ha giocato. Diciamo, se almeno questo, almeno questa colpa gliela possiamo risparmiare. E in generale, ma il Liverpool ha fatto una squadra assurda ieri, tenendo Gerrard in panchina, facendo di fatto turnover per Liverpool Chelsea, l'andata come se l'avesse data per persa. Poi in realtà ha fatto una figura sicuramente migliore rispetto all'andata. Chiedo anche una ricevuta a questo pacco. Vai, chiedi la ricevuta. No, è importante. Guarda, fai così, chiedi la ricevuta, sì. Intanto io interrogo Luigi. Intanto interrogo Luigi dalla provincia di Lecco, prego, che arriva un po'. Provincia di Lecco. Buongiorno Luigi. Buongiorno e grazie per la convocazione. Allora provi a indovinare quanto ha speso Pardo in taxi. Vediamo se indovina. Da dove a dove? No, lei è a Roma, però la butti lì. 37 euro. 37. No, pochissimo, molto meno. Molto. È vero, è fortunato. Sì. No, sono 8 metri. Ma potrei andare a piedi allora, se la poca strada. Vai a piedi. A piedi. Pelandrone. Due bagagli e poi 15 piedi. Dica Luigi. Allora, io volevo dire una cosa. Io sono juventino da quando sono nato, giusto 50 anni fa oggi. E volevo dire, si parlerà del rigore di Vidal che ci può costare la qualificazione. Io dico che ci possono costare la qualificazione i due gol che abbiamo preso per l'ennesima partita in Europa, perché non è possibile che dall'anno scorso a quest'anno, su 10 partite, giocando con danesi, svedesi, turchi e greci, prendiamo gol 9 partite su 10. Sì, questo quindi è vero. Questo è una difesa che in Italia è la più meno battuta, quindi figuriamoci le altre. Luigi, però tenga conto anche del fatto, è vero, quello che dice è vero, è oggettivo. Non credo sia una questione così profonda differenza tra un campionato italiano in cui la difesa regge e una Champions League in cui non regge, anche perché i competitor non sono stati tutte le volte il Bar Monaco, ma l'Olympiakos, il Galatasaray, il Copenhagen, eccetera, eccetera, eccetera, non mi sembrano squadroni. Questo è vero, però la Juventus ieri probabilmente ha pagato anche qualcosa, lo dicevamo prima, ad un cambio di pelle che è stato un certo azzardo. Però ecco, questo diciamo che fotografa quello che dicevamo prima, cioè il problema non è tanto il fatto di aver trovato in questo percorso europeo negli ultimi 2 anni e mezzo squadre così clamorosamente superiori. Anche il Real Madrid l'anno scorso, io ho seguito tutte e 2 le partite, insomma a Madrid si perse, ma testa altissima, con parecchie discussioni anche arbitrali. A Torino fu 2-2, una partita molto bella, molto divertente e complessivamente equilibrata, con la squadra che sta vinto. Quindi non è tanto questo, ma è il fatto che però, a differenza di quello che succede in Italia, la Juve concede delle cose, delle situazioni, riesce ad essere molto meno brillante rispetto a quello che succede in campionato. Insomma, Juve Galatasaray dell'anno scorso ce la ricordiamo col 2-1, 2-2 nel giro di 30 secondi, la sconfitta di Atene quest'anno, sì. Ovviamente Istanbul, cioè tutta una serie di partite che poi sai, in Europa ti passa poco, perché in Europa se ne sbagli 2 o 3, su 6 sei fuori. Certo, certo, certo. In campionato certo. Se ne sbagli 2 o 3 su 38, non hai grandi problemi, non hai grandi problemi. Ci sentiamo tra una mezz'oretta? Sì, bravo. Ah, cosa dici? Esatto. E magari recuperi anche un telefono fisso al ristorante, non lo so, da un'altra parte. Tanto io appunto parlo torno tra mezz'ora, ma Fabio della provincia di Piacenza è in linea, quindi vorrei parlare con lui. Buongiorno. Buongiorno, dica. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io sono un tifoso del Milan, mi piacerebbe parlare del Milan in Champions League, ma sono per vedere Milan. No, parliamo del Milan. No, nel trofeo Berlusconi. Trofeo Berlusconi fuori stagione, tempo da cani. Infatti, notte di un brutto che si annuncia epocale, cornice adatta a un Milan San Lorenzo trofeo Berlusconi fuori stagione. Lei va allo stadio? Prezzi popolarissimi, 20 euro per la tribuna rossa vippissima, 10 euro per ogni altro settore, insomma costa molto poco andare a vedere il trofeo Berlusconi, ma non so se è un incentivo sufficiente. Questa sera non sarò allo stadio, probabilmente non vedrò neanche la partita, nonostante la passione che ho per questi colori. Volevo però fare questa osservazione, Io inizio stagione consapevole del fatto che comunque la rosa del Milan sia inferiore a 3 o 4 squadre, 5 forse del nostro campionato, però ho delle sensazioni positive, nel senso che ho visto forse un gruppo che è stato ricreato, un sacrificio da parte di tutti nell'aiutarsi nelle partite, corsa, azioni anche a un tocco, smarcamenti e quant'altro, cosa che però nel giro di poco tempo Diciamo, Fabio, diciamo che certamente la squadra è con Inzaghi, la società è con Inzaghi e non ho grandi ragioni di dubitare su tutto questo, mentre sull'altro versante del naviglio qualche dubbio ce l'ho, al di là di Mvilà desaparecido, altra storia meravigliosa di cui poi parliamo, è sparito per un giorno, si sapeva che è un carattere un po' così, però sparito per un giorno e poi l'hanno ritrovato. Non ho questa certezza per l'Inter, ce l'ho per il Milan. Bet Corner GR, poi di nuovo qui 800 24 00 24, numero verde. Quote e pronostici. Mercoledì ad alta tensione per la Roma, che deve dimenticare la lezione di Napoli, ma soprattutto il 7-1 maturato all'Olimpico 2 settimane fa proprio per mano del Bayern di Monaco, che questa sera sarà avversario dei giallorossi, questa volta a Monaco di Baviera. Sono queste le quote Snai per questa partita. L'1, la vittoria del Bayern, che è favoritissimo, è quotato 1,25. L'X è a 6,50. Il 2 con la vittoria dei giallorossi è quotata addirittura 10. A Manchester, sempre nel girone della Roma, c'è Manchester City CSKA. L'1, la vittoria degli inglesi, è a 1,23. L'X è a 6,50. Il 2 è quotato 11. C'è un pezzo di storia della massima competizione europea che passa questa sera da Amsterdam, dove si gioca Ajax contro Barcellona. L'1, la vittoria dei lancieri, è a 8,50. L'X è a 5. Il 2, con il successo blaugrana, è a 1,35. Chiudiamo con la sfida che alla andata ha regalato più emozioni, quella tra Sporting Lisbona e Schalke. L'1, il successo dei portoghesi, è quotato 1,90. L'X è a 3,50. Il 2, con il successo dei tedeschi, è quotato 4. Questa era l'ultima delle quote Snai di oggi. A risentirci domani. Tutti convocati. Tra un po' parliamo anche della Roma, della partita che l'aspetta non al Colosseo con il Bayern Monaco, ma all'Allianz Arena, molto più prosaica, intanto reale. Poi chiederò a Pardo, che torna tra una ventina di minuti, come vedrebbe uno scambio a gennaio Vidal-Fellaini con conguagli a favore della Juventus. Domanda Michele, domanda ardita. Non so se andrà da Perugia in linea o è cascata la linea. No, non è ancora in linea. Intanto, per quanto riguarda i risultati di ieri, da segnalare anche il bizzarro Arsenal, vinceva 3-0 e si è fatto rimontare sul 3-3. Abbiamo detto del Galatasaray, che ne ha beccati altri 4, sono 13 gol subiti in 4 partite, ma Prandelli non si dimette. Vorrei parlarvi anche di Vila desaparecido. Abbiamo parlato molto a lungo dell'Inter, abbiamo parlato molto a lungo dell'Inter negli ultimi giorni, ma questa ci mancava onestamente, signori interisti, 800 24 00 24, che Vila fosse una testa un po' bislacca lo sapevamo, ma intanto si è dato alla macchia per un giorno, poi si è ripresentato bello, si è beccato la sua multa, vediamo come va anche questa. Tanto l'Inter è alla vigilia della partita contro il Saint-Étienne in trasferta, che vorrà dire qualcosa in questo momento strano e difficile. Vigilia di Garcia. Ma domani abbiamo poche chance di fare un risultato positivo, che ne so, 1 su 10, ma se è 1 su 10 vuol dire che abbiamo questa possibilità, ma più che il risultato sarà il contenuto che conterà domani. Io ho detto che era un incidente all'andata, e dopo questa sconfitta all'andata abbiamo reagito bene, perché abbiamo pareggiato sul campo del terzo, abbiamo vinto in casa e dopo abbiamo perso a Napoli, ma perdere a Napoli non è una vergogna. No, non è una vergogna, ma intanto la Juventus se n'è andata di nuovo e la Roma ha dato comunque l'impressione, ha lasciato l'impressione di una squadra piuttosto stanca. Questa sera Garcia, che è tutt'altro che fesso, farà ampio turnover, da capire se ma tra poco lo scopriamo se giocherà a destra o giocherà gli Aici in coppia con Gervinho. Non giocherà certamente Totti, quindi ampio turnover per una partita in cui la cosa più importante sarà la figura che la Roma riuscirà a fare, ma al di là del risultato, perché poi tanto saranno Mosca e la partita dell'Olimpico con il City a dire la verità sulle prospettive europee della Roma. Aldo, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Io ho visto la partita ieri sera e praticamente ho ricavato la stessa impressione che ne ha avuto Pardo, perché veramente la Juve secondo me ha meritato ampiamente la vittoria. Non è stata così fortunata anche come forse lei, signor Gente, vuol far apparire. No. Comunque è vero che ha avuto il secondo gol è stato quella è stata la chiave di volta, certo. Perché da lì, se passa ancora qualche minuto, poi subentra un'ansia terrificante, Aldo. Sì, però non è, ma ci sta anche questo, cioè la fortuna va anche cercata e va anche meritata, cosa che la Juventus ha fatto. Non è vero che io dico che non ha meritato di vincere, ha meritato di vincere la Juventus ieri sera. Però la mia considerazione è un'altra, è proprio quella legata al fatto che questo modo di giocare la Champions League è comunque un girone inutile, nel senso che si passa, magari anche questo turno non lo si passa, ma dopodiché non c'è trippa per Gatti. Ma poi vediamo. Io continuo a pensare che comunque possa essere realistico per la Juventus l'obiettivo dei quarti di finale. Poi, passato questa fase, si gioca, si ricomincia a febbraio-marzo, è un'altra storia, c'è confronto diretto, vediamo. Cioè, secondo me, anche emotivamente per la Juventus, lo scoglio grande, cioè quello, il cartello con la parola fallimento, è alla fine di questo primo turno. Poi potrebbero cambiare moltissime cose. Senta, lei ha fatto un capolavoro tattico a Roma, si è visto sul campo e ci sono stati poi dei contraccolpi nella Roma. Garcia ha parlato proprio di problemi di testa dopo quel 7-1. Da quello che ci risulta, domani cambierà qualcosa tatticamente, rinuncerà al terzo attaccante, ne metterà due e aumenterà un centrocampista. Cazzo, c'è in buon cambia idea. Qualcosa per lei o è differente? No, poi magari non sarà così. No, però, complimenti, sei un grande giornalista, sai tutto di Rudy Garcia. No. Vieni al mio ufficio e raccontami con chi giocherà e come giocherà. Allora, Angelo Mangiante da Sky, sei stato ingaggiato da Guardiola. Ciao Angelo, grazie. Sei passato in ufficio. Ancora mi diverto. Sei passato in ufficio. Sì, mi sono presentato con i miei 7 procuratori e adesso stiamo un po' trattando. Però insomma ci sono buone possibilità, ma magari anche a stretto giro di posta, no? Possiamo già comunicarlo a Sky. Esatto, non vedono l'ora. Tanto aspettando di vedere la Roma al Colosseo come vuole Pallotta. Prima abbiamo parlato con Pardo, siamo anche abbastanza divertiti. Come la vedi questa idea? Roma al Colosseo? Beh, è un'idea geniale. Io non so se riuscirà a realizzarla, ma francamente sarebbe un evento che potrebbe realmente fare il giro del mondo, perché pensa che fascino, no? Certo, pazzesco, magari sì. Portarci contro il Bayern, no? Poi organizzare un amichevole e rischia di rifinire 7-1, forse bisognerebbe cambiare avversario. Ma il tuo, c'è un ascoltatore che fa una considerazione interessante. Il tuo nuovo capo allenatore, secondo te, è così signore da non far fare una figuraccia alla Roma questa sera? No, assolutamente no. Anzi, è uno bello avvelenato in panchina, perché anche quando il Bayern vinceva 5-1, 6-1 all'Olimpico, voleva che continuassero. Quindi no, questa ipotesi io non la ritengo credibile. Non è credibile. Destro sì o no? Sì, destro sì, che significa Totti in panca. Totti in panca per una partita nella quale l'unica cosa vietata, dicevamo prima, è fare una brutta figura, perché poi saranno Mosca e il Manchester City, non al Colosseo ma all'Olimpico, a dire la verità sulle prospettive della Roma. Ma sì, poi tra l'altro c'è Pallotto in tribuna, come sai, questa vetrina internazionale serve molto anche all'immagine, no? Al brand che loro vogliono esportare, quindi io credo che sarà una partita per giocare con grande umiltà, quella che è mancata all'andata, e se possibile limitare i danni. Sì, tu hai la sensazione di una Roma stanca, ti rimane la sensazione di una Roma comunque in debito d'ossigeno? Messi, secondo me il problema più che di testa è proprio di gambe, poca preparazione estiva per far partire subito la tournée americana, e quindi non tengono le due partite a settimana. Sì, questo problema però ce l'hanno tutti, ce l'ha anche il Bayern, ce l'hanno tutte le grandi squadre, dovrebbero averlo tutte le grandi squadre, però in Europa corrono tutti come lepri, mentre le squadre italiane con i ritmi europei, e questa è storia recente, dibattito attuale, fanno una gran fatica. Guarda, io non so, vengo anche da un altro sport, io vengo dal tennis, sì. Ho avuto la possibilità di allenarmi anche a livello professionistico, anche se non certo quello dorato. Francamente noi ci allenavamo 6 ore al giorno, cioè non capisco, e adesso qui resto nel calcio italiano, perché durante la settimana l'allenamento per un calciatore che guadagna più sfigato un milione netto l'anno debba durare un'ora e basta, e poi tutti a casa, mi sembra troppo poco. Eppure quelli che vengono a giocare qui dicono: non abbiamo mai lavorato così duramente, molti lo dicono, Ma però io ci credo poco. Quindi tu pensi sia proprio una questione di intensità e di durata degli allenamenti, ma secondo me è anche una questione di diverso sforzo che si fa nel campionato italiano. Angelo, ti ringrazio, buon lavoro, salutaci Guardiola, salutaci Guardiola. Volentieri, proseguo alle regole di ingaggio adesso con lui, vediamo quello che esce fuori. Va bene, perfetto, grazie, buon lavoro, ciao. Un abbraccio. Ciao. Andrea Perugia. Sì, salve, buongiorno, grazie per la convocazione. Buongiorno. Senta, visto che in questo momento state parlando della Roma di Garcia, volevo fare proprio un discorso parallelo riguardante l'Inter di Mazzarri. Poiché un anno fa, quando Garcia arrivò nella panchina della Roma, diciamo che la Roma non si trovava in un buon momento, veniva da una contestazione alla presentazione, alla vendita di Osvaldo, Lamela, Marquinhos. E nonostante questo, dopo un mese e mezzo, ricordiamo tutti le 9 vittorie di fila della Roma di Garcia. Sì, è difficile, Andrea, dimenticare l'immagine dell'inizio della stagione scorsa della Roma, perché non la dimenticherò mai, con tutti i giocatori a testa bassa di fronte umiliati e inginocchiati davanti alla curva che contestava per il derby di Coppa Italia perso, una delle immagini più tristi che io mi possa ricordare negli anni recenti. Comunque, da lì si è partiti, e poi diceva una sessione estiva in cui avevano venduto comunque sia forse i 3 giocatori che si erano mai espressi quell'annata, Lamela, Marquinhos e Osvaldo. Diciamo che intervengo per dire che Mazzarri viene in qualche parte difeso anche dopo un anno e mezzo in cui l'Inter non ha uno straccio di gioco, e non mi si venga a dire che qualche giocatore dell'Inter non sia un giocatore importante, vedi Hernandez, vedi Kovacic, vedi Osvaldo, Palacio, lo stesso Ranocchia, che con Conte sicuramente sarà un titolare della nazionale italiana. E nonostante ciò vediamo un gioco che latita. Sì. A lunghi tratti latita, basta difendersi 10 persone dietro la linea della palla e non c'è un centrocampista che faccia un movimento senza il pallone. Quindi non capisco come si possa difendere un allenatore così, che non ha un Lavezzi, non ha un Cavani, un Icardi. Ricordiamoci che Cavani andava a prendersi la palla anche al limite della propria area, un Lavezzi che portava il pallone per 30 metri saltando l'uomo sistematicamente. E lui prova a fare questo sistema di gioco anche con Palacio, che ha 32 anni, con Icardi, che è un giocatore prettamente d'aria. Però lei mi sta dicendo che da un lato l'Inter ha giocatori di qualità, dall'altro lato ha giocatori non adatti al gioco di Mazzarri, è questo che mi vuole dire? Cioè... Sì, io dico che ha giocatori di qualità ma non adatti al gioco di Mazzarri, non ad un 3-5-2, soprattutto con sulle fasce giocatori che non saltano, non puntano mai l'uomo, non arrivano mai sul fondo, cosa che un giocatore come Icardi richiede. Forse sarebbe più giusto passare a un 4-3-1-2 e di giocatori per farlo pensa che li avrebbe. Ma io continuo a pensare che anche sull'Inter ci siano grandi problemi di condizione fisica, di condizione atletica, e poi l'ho detto anche nei giorni scorsi, continuo a pensare, penserò sempre che gambe e testa sono strettamente legate, e in questo momento è molto difficile giocare nell'Inter, giocare a San Siro, avere tutta quella pressione addosso, vivere in una situazione di costante contestazione per Mazzarri e per la squadra. Insomma, l'ambiente in questo momento non sta per niente aiutando la crescita di questa squadra. Che non sia un Inter brillante dal punto di vista del gioco è innegabile, però non mi sembra nemmeno così pessima dal punto di vista dei risultati. È tuttora, nonostante mille traversie, in linea di galleggiamento con gli obiettivi stagionali, non credo che un cambio di allenatore in questo momento potrebbe giovare più di tanto, anzi secondo me sarebbe, lo ripeto, molto costoso, e Toir credo sia estremamente attento a questo punto, e non porterebbe l'Inter a vincere lo scudetto, non porterebbe l'Inter ad essere più competitiva, porterebbe dove? A una prospettiva futura che però non si costruisce ai primi di novembre. Secondo me varrebbe la pena aspettare, dare ancora credito a Mazzarri fino alla fine della stagione, poi eventualmente lo si cambia con calma, e pensando a una ricostruzione che comunque credo sia già in atto, almeno nelle strategie societarie, sebbene con il profilo del low cost, del mercato a basso impatto, eccetera, eccetera. Però, a differenza del Milan, l'Inter mi dà l'idea di una squadra, di un club che ha già incominciato un processo di ricostruzione. Massimiliano Ancona. Ciao, ciao. Sei a tutti. Sei juventino? Sono juventino, sì. Senti, ma tu, ma sì. Toglimi una curiosità, ma tu hai visto bene Vidal ieri? No, perché c'è ad esempio Riccardo da Bologna che scrive che ha corso come un matto, che ha recuperato un sacco di palloni, eccetera. Guarda, eccetera, io eccetera. Ieri tra l'altro ho fatto la follia, sono anche andato allo stadio della partita. E quindi? Anche se era distante. Ma la verità, Vidal non era Vidal ha fatto il gregario, ha fatto quello che permettetemi, fa Padoin, ha corso, ha recuperato, ma Vidal deve fare un'altra cosa. Vidal deve fare gli inserimenti, fare i gol, deve fare quello che, come si dice, spacca la partita, e non l'ha fatto, perché non, secondo me non c'è ancora la gamba, non ha ancora la condizione, si vede, perché non recupera. Sempre per il discorso di cui sopra, non mi sembra avere neanche una gran condizione mentale, mi sembra, sì, come no, diceva Maurizio Cosetti, sembra un po' frastornato, distratto, però devo dire la verità, però si è impegnato. Il problema è che probabilmente è il modulo che ha fatto, infatti volevo parlare di questo, per Vidal questo modulo secondo me non è l'ideale per lui, perché il trequartista, il fatto trequartista non è proprio nelle sue corde, però invece per la Juve è un gran bel modulo. Allegri ha trovato, probabilmente fortunatamente, perché gli mancava la difesa, non c'è casa, però la difesa 4 con tutti i centrocampisti che giocano è la quadratura del cerchio, soprattutto quando le squadre si chiudono, perché alla fine l'Olympiacos ha fatto, i primi 25 minuti ha fatto mezzo tiro in porta di testa, ha fatto gol, che è importante, però quindi sì, probabilmente in campionato la partita con tutti le partite che la Juve non riesce a sbloccare, con questo modulo in cui tu hai quattro difensori, di cui fondamentalmente uno, due stanno davanti al centravanti, e non hai tre. Sì, ma è reale anche comunque un limite che sottolineavo prima, cioè una Juventus che non ha giocatori in grado di saltare l'uomo, non ha al momento, magari li cercherà al negozio dei giocattoli di gennaio. Non ha giocatori di fascia, non ha giocatori in grado di cambiare qualcosa quando la partita diventa difficile, perché non si può chiedere questo ad Asamoah, nemmeno ad Evra, certamente non a Lichtsteiner, non ai giocatori in rosa attualmente alla Juventus. Sbaglio? Dagli altri, no, è correttissimo. Un problema è che anche dagli altri anni, anche con Conte, la Juve faceva Conte, 10, certo. 15, 20, 20 azioni di gol, faceva 1, 2, cioè, finalizzava il 5% di quello che costruiva. E chiaramente mancano questi giocatori. Manca, per esempio, chiacchieravamo con degli amici, manca per esempio Calecon alla Juve, manca un Mertz, manca un giocatore che sulla fascia ti permette di cambiare il modulo, comunque ti inventa la giocata che poi ti serve. Sì. Chiaramente, però ripeto, con questa difesa 4 secondo me, e questo rombo particolare con Pirlo che viene supportato bene, perché sia Pogba che Marchisio a me sono piaciuti tanto, sì. Secondo me questo modulo con questa Juve di Allegri, che è diversa con i Conte, perché esatto, questa è l'idea di Allegri, Massimiliano, questa è stata la prima Juventus davvero di Allegri, che è stato molto intelligente nell'iniziare la stagione seguendo con grande umiltà anche le orme di Conte, quello che Conte aveva lasciato, lasciando alla squadra la possibilità di seguire lo spartito di un gioco che conosceva a memoria, di un gioco rodato, eccetera, eccetera. Questa è stata la prima Juventus di Allegri. È stato molto azzardato vararla in una partita dentro fuori, una partita in cui al ventesimo del secondo tempo la Juventus era molto vicina al cartello di cui facevo riferimento prima, metaforico, con scritto fallimento, che sta che potrebbe stare alla fine di questa prima fase di Champions League, perché è inutile nascondere che per la Juventus sia determinante superare questa prima fase ed evitare quel cartello fallimento. Quindi questa è stata certamente, è certamente la prima Juventus di Allegri, e quelli che hanno preso Allegri, che hanno ingaggiato Allegri, conoscono benissimo quali sono le sue idee di gioco. Da ieri sera le abbiamo viste, certamente rivedibili, perfezionabili, con punte di ruggine, si diceva, qua e là, però margini di crescita certi. Luca Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Genta, grazie della convocazione. Ho sentito una cosa esatta che ha appena detto, penso che ieri sera ci sia stato poco mordente. La Juventus secondo me si deve togliere il peso della qualificazione. Ma certamente così. Bravissimo, bravissimo, bravi, sono d'accordo. Perché per la Juventus è un peso questa qualificazione. L'ho detto prima, insomma, è un peso questa qualificazione, proprio perché l'obiettivo dichiarato è quello di passare questa prima fase, che poi siano ottavi o quarti, la differenza la faranno i dettagli, la condizione, e sarà una Juventus diversa anche in Europa, io sono certo. La Juventus in questo momento gioca con grandissima pressione addosso nelle partite di Champions. Paolo su Twitter sottolinea che l'arena del Colosseo misura 86x54, ditelo a Pallotta, può organizzare una partita di calciotto, di calcetto o un match dei Boston Celtics, non una partita di pallone, ma una soluzione si trova, Paolo. No, mi incuriosiva, vabbè, magari ve lo faccio sentire dopo, mi incuriosiva un file audio che ho trovato qui stampato, un'altra idea americana, cioè quella di Tacopina, che leggo vorrebbe uno stadio con i mattoni a vista. Ma cos'è sta storia? Me la fate sentire? Take away the metal. That's a beautiful stadium under there. It looks like, reminds me of Camden Yards in Baltimore, because underneath there is such a beautiful facade, that brick facade. I've seen some of the sketches from some of the architects, the local architects. I think they're beautiful. It will look stunning. It'll look world class. It will be one of the most beautiful stadiums in the world for sure. Capito? Questi americani hanno un grande senso dell'arte. Cioè, Tacopina dice che sotto le strutture metalliche, le porcate che ricoprono da nare, ci sono degli splendidi mattoni a vista, e lui vorrebbe riportarli alla luce. Grande senso dell'arte questi americani, Convocati. Può affondare Tevez, a terra all'interno dell'area di rigore, calcio di rigore, questa è una grande occasione per andare sul 4-2. Parte Vidal, il destro, traversa. Sì, una vittoria fondamentale, nonostante siamo andati sotto, però abbiamo avuto la calma, la forza di ribaltarlo. Alla fine ci tornava comodo anche questo rigore, però siamo soddisfatti della prestazione. Ecco che è tornato Pierpardo, lo stai? Eccoci, dove stavo prima? Lo stavi prima, giustamente, non è che in mezz'ora puoi aver fatto tanta strada. Comincio a parlare romano, signor Gina, da Pavia direttamente. Ma perché? Ma perché sono. Tra un po' parlerò solo inglese, sono affascinato dagli americani, ma ho scoperto un file audio dove c'è Tacopina che dice. La sai questa? Che sotto la copertura del Dallara, quel cemento e ferro, ci sono degli splendidi mattoni a vista, e che lui vuole riportare all'antico splendore. Sono quasi commosso. Ma guarda che a parte tutto, gli americani sono storicamente innamorati. Ma chiaro. No, il film di Woody Allen, no, sulla bellezza di Roma, di Parigi. Sono straordinariamente innamorati dell'Europa, anche nei loro tentativi più commerciali, tipo Las Vegas, hanno ricreato quei pezzi di Europa che non possono avere in casa, quindi non mi sorprende del tutto. Ma è storia vera, è che non si commuovono davanti a un muro di mattoni, è normale questo, ogni volta che arrivano in Italia rimangono a bocca aperta davanti a qualunque angolo. È la famosa battuta attribuita ad Agassi, non sappiamo se è vero, che passato per Roma disse che aveva visto un sacco di case vecchie, tipo. Però non voglio dare, magari è una leggenda metropolitana. Andreino nostro. Senti, ma sai che c'era la conferenza stampa a Milano di presentazione di Italia-Croazia, no? C'è Conte. Sì. Secondo te, facciamo scommessa, ha parlato di Juventus o no? Sono cose che non ho. in questo momento non mi interessano. Secondo me non ne ha parlato. Anche secondo me, ma lo chiediamo a Dario Ricci che è lì. Ciao Dario. Ciao ragazzi, beh, velatamente ne ha parlato, velatamente, perché che vuol dire velatamente? C'era l'interdizione papale, no? Non si possono fare le domande sul campionato, sì. Il primo ci ha provato, è stato subito macchettato. Ma poi in realtà, insomma, la domanda sul campionato ci ha riuscito a farla entrare, beh, della Juventus ha detto... più che altro ha detto, dice, chiaramente è importante che le nostre squadre e le coppe facciano parecchia strada, cosa che è raramente riuscita in questi anni, e Conte ha ribadito che l'anno scorso invece la sua Juve, pur perdendo in semifinale di Europa League col Benfica, un cammino lungo in Europa l'ha fatto, però dice chiaramente è importante che questo cammino sia il più lungo possibile, insomma, ma insomma è anche un po' banale, un po' scontato. E al tempo stesso poi però ha espresso un giudizio molto interessante su El Shaarawy, perché Shaarawy e De Sciglio chiaramente risentono inevitabilmente del momento no del Milan, e ha fatto intendere Conte che El Shaarawy è un giocatore, ha detto, che deve decidere se diventare grande giocatore o meno. Dove, insomma, ha sottolineato questo aspetto in modo abbastanza puntuto, come a far capire che è vero, sì, parliamo della crisi del Milan, delle difficoltà dei rossoneri, della ripartenza del Milan di Inzaghi, ma El Shaarawy deve metterci di più e forse anche molto di più del suo. Mica male, deve decidere, Pardo, deve decidere lui se diventare grande giocatore o no. Eh sì, questa è una perifrasi che si usa nei confronti di tutti gli incompiuti della storia, no? Anche su Balotelli, anche se Balotelli ovviamente ha caratteristiche diverse, su Cassano nel passato. Insomma, diciamo che già avere questa possibilità rispetto a quelle carte che mi darà. Ti sento più, ti ho perso Pierluigi. Ti sto perdendo. Dario, che altro ha detto il CT? Beh, interessante quello che ha detto rispetto chiaramente al cambiamento del ruolo, no? Da tecnico di club, che club a CT, ha detto chiaramente è un po' più difficile accendere la fame del giocatore, no? Non avendoli tutti i giorni sotto le grinfie, viene da dire, immaginando Conte che tutti i giorni ti comincia a far allenare alle 8 del mattino, come ben sappiamo. E ha detto poi c'è chi questa fame, questa fiamma ce l'ha, chi ce l'ha accesa a metà, e chi invece proprio non ce l'ha, è quello chiaramente è il caso più difficile. Insomma, mi sembra che quello spogliatoio comunque già ci stia mettendo molto, molto del suo, e ha cercato anche di accendere poi la passione di Milano, perché il problema poi in vista di questa sfida sarà anche riempirlo questo San Siro. Ammettiamolo che chi ci sta andando in questi sabati, in queste domeniche, a parte che insomma cominciano a essere pochi intimi, ma non è che si vede gran calcio. No, non si vede gran calcio, per niente. No, io sto continuando a pensare a quelli che ci andranno stasera, ma basta guardare fuori dalla finestra, guardare il tempo, c'è buio, sono le 15:39, vento, pioggia, il San Lorenzo per il trofeo Berlusconi, ma te la vedi? Grazie Dario, ciao. Grazie a voi, ciao. Pierluigi, ci sei? Ci vuole un miracolo del Papa per passare la setta a vedere San Lorenzo. Ci vuole la benedizione del Papa, ci vuole un miracolone. Dai, ci vuole un miracolone. No, io credo che, a dire di scherzi, veramente è un'immagine abbastanza paradossale, no? Trofeo Berlusconi, che sappiamo storicamente è stata la grande kermesse estiva in cui il Milan ha presentato i suoi 1000 campioni. Adesso si gioca il 5 di novembre, notte da lupi contro San Lorenzo. Sì, no, mamma mia, dal punto di vista del marketing non è il massimo rischia di diventare un boomerang, un torneo estremamente prestigioso che, al di là di quella vecchia tradizione che sembrava fosse meglio non vincerlo per motivi scaramantici, però cioè, per tanti anni ha rappresentato veramente la partita, no, dell'estate. Il campionato parallelo che l'estate, insomma, era veramente quindi sì, un po' di nostalgia c'è, magari. Adesso il Milan può vincerlo senza troppi problemi, tanto non arriva, non compete per lo scudetto, diciamo così. C'è un ascoltatore che dice che se la Roma potrà giocare al Colosseo, lui vuole la finale di Coppa Italia all'Arena di Verona. Vabbè, qui siamo al massimo dell'immaginifico. Alfonso Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione, grazie per essere. Guardi che Pardo sta arrivando a commentare il Napoli, eh. Ah no, volevo solo sapere una... Domani, chiaro, so. Allora, ascolterò sicuramente. Senta, volevo solo sapere una cosa. Non crede che è stata un po' troppo sottovalutata la vittoria del Napoli, amplificato il fatto che la Roma avesse una crisi? Perché io ho visto comunque una partita, anzi, in tutte le partite del Napoli che ho visto, non ho visto mai una partita come quella del Milan, del... cioè anche quando ha perso, ha sempre creato tante occasioni da gol e diciamo quest'anno siamo sempre stati un po' sfortunati. Questa è la mia opinione, io non dico di vincere lo scudetto, però credo che almeno per il terzo posto difficilmente ci sia qualcun altro davanti a noi. Grazie di ascolto, ma, per radio. Ma non, certamente Napoli è da corsa per il terzo posto, questo non mette dubbio nessuno. Ha probabilmente giocato, certamente giocato la sua miglior partita stagionale, no? Pier, sei d'accordo con quello? Assolutamente, assolutamente non è una novità così clamorosa, perché il Napoli spesso ha giocato bene le grandi partite, e Benitez sta questa stessa, diciamo, tendenza negli anni a giocare bene le grandi partite, infatti l'abbiamo ricordato, ha vinto più spesso in Coppa che in campionato. E quindi no, sono d'accordo, ma insomma mi sembra che ne abbiamo parlato poco, ne abbiamo parlato parecchio, e quindi il Napoli con quei due rigori segnati avrebbe un'altra classifica, sarebbe tutto un altro effetto. Io sono convinto che se avrà quella continuità di rendimento potrà far molto bene. Il punto è che secondo me nella quotidianità del campionato subisce comunque troppi gol, certo. Quindi se il vero miglioramento secondo me sarà non tanto battere la Roma, che era successo anche straordinariamente l'anno scorso al ritorno in Coppa Italia, o vincere con la Juve in casa come era successo l'anno scorso, ma sarà cominciare ad avere una continuità di rendimento con le piccole che Napoli non ha avuto e che è quello che poi pure l'anno scorso ha penalizzato. Certo, e infatti secondo me all'intertempo del 5 di novembre la squadra più equilibrata in questo momento è la Lazio, non a caso reduce da una serie di risultati utili consecutivi, impressionante. Ciao Pier, ti lascio in viaggio. Pierluigi, non riesco proprio a sentirlo. No, volevo sottolineare, volevo darvi questa notizia: è stato un incrocio pericoloso stamattina a Fiumicino, perché c'è Rocchi che sta andando a Bruxelles per dirigere una partita di Coppa del Trabzonspor, e c'erano i tifosi della Roma che stavano andando a Monaco, dunque c'è stato questo incrocio pericoloso tra il grande imputato di questo momento giallorosso, Gianluca Rocchi, e i tifosi della Roma. Non è successo nulla di che, ha detto Rocchi, però l'imbarazzo è stato evidente e il parapiglia l'hanno visto in molti. Allora, detta questa di Rocchi, andiamo a fare un giro a Treviso, provincia di Treviso. Giancarlo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i colleghi convocati, anche a lei. Io volevo fare una considerazione e una proposta. La considerazione è questa. Io ho l'impressione, e non soltanto l'impressione, che il gioco del calcio sia in assoluto il gioco di squadra più sleale che io abbia visto in circolazione. E non serve che stia qua a spiegare quali sono i motivi, basta soltanto un fallo laterale per capire l'onestà dei contendenti, degli attori in campo. Detto questo, che non so se ti trovo d'accordo, ma detto questo, restando sempre in tema di comportamenti, la proposta che volevo fare era questa. Io sono di Treviso e quindi qui impera un po' il rugby più che il calcio. Quando vado a vedere le partite di rugby e vedo gli arbitri che fischiano il fallo, che mandano fuori un giocatore, mi viene alla mente subito la partita di calcio. Io dico, ma perché in un incontro di calcio non si fa in modo che l'arbitro sia come un arbitro di rugby, dove l'arbitro sancisce quello che è il fallo, quello che è un rigore, eccetera, e il giocatore prende atto di questo. Io ho visto l'ultimo incontro anche della Serie A, l'arbitro ha fischiato, ha detto al giocatore tu vai fuori, il cartellino giallo, il giocatore si è tolto il cartellino, se n'è andato fuori senza fare assolutamente questo nessuna osservazione. Questo è un discorso, ma questo che stiamo facendo è un discorso abbastanza epocale, nel senso che sono due universi neanche tanto paralleli, quindi mi risulta difficile, guardi, le dico la verità, affrontare un discorso così colossale come questo. Lo spirito del gioco nel rugby e nel calcio ne abbiamo, dunque siamo qui da una quindicina d'anni, ne avremmo parlato, non so, credo mezzo miliardo di volte. Sono, ripeto, due universi nemmeno tanto paralleli, poi ognuno sceglie il passatempo che preferisce. Tutti convocati. Allora, abbiamo recuperato un file audio, però piantanito al volo, di ciò che è successo stamattina, saranno più che altro effetti sonori, immagino, ciò che è successo stamattina a Fiumicino, dicevo, questo incrocio pericoloso tra Rocchi in partenza per Bruxelles per dirigere la gara di Europa League e i tifosi della Roma in partenza per Monaco di Baviera. A Farzoni! A Ciccio! Rocchi, dai con noi! C'è San Posto libera, Rocchi! Rocchi, dai con noi! Te c'è del posto, Rocchi! Non c'è un ragazzo da ridere, ride pure! Rocchi! Alla scarta aperta che sei in tornare! Sbriga ad imbarcate! Portacci due, Rocchi, portacci due! Portacci due, Rocchi, portacci due! È una macchina di grande eleganza, devo dire, quindi non è successo niente, d'accordo, però un incrocio di grande eleganza, si sono stretti la mano in maniera cavalleresca, diciamo. Fate le due risate, li vedete tutti seri! E i tifosi giallorossi. Pace fatta, diciamo così, pace fatta. Domenico, Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno, volevo fare un'osservazione a proposito degli uomini che controllano la partita. Sì. Mi riferisco ai due uomini che controllano la linea di porta, non so come si chiamano. Sì, i giudici di porta, sì. I quelli giudici che vediamo. Di porta, ecco. Sì, sì. Non so se avete notato, sono posti alla sinistra del portiere, dove c'è anche il guardalinea. Quindi ci sono due uomini che controllano lo stesso spazio, e tra l'altro negli allineamenti le figure che si sovrappongono possono dare fastidio. Allora io mi domando perché non mettono questi due uomini dalla parte destra del portiere, avremmo una copertura totale del campo. Sì, una risposta a questo quesito tecnico non glielo so dare, ma certamente insomma sono posizionati dove si ritiene che siano più utili. Io continuo a interrogarmi sulla reale ed effettiva utilità di questi arbitri aggiuntivi, però non mi sembra tanto una questione di posizionamento, mi sembra una questione di divisione dei compiti che ancora è faticosa ed è difficoltosa. Non stavo leggendo così al volo anche altre varie notizie curiose. Beh, Cannavaro, che succede a Lippi sulla panchina del Guangzhou, già la sapete. Non sapete invece magari che Adriano, poveretto niente, si sta provando a riciclarsi al Le Havre, sta cercando un contratto per tornare quantomeno nel calcio, anche se non in quello di primissima fascia, che è stato coinvolto, ennesima disavventura, in una brutta storia di traffico di droga per pericolose frequentazioni con un noto trafficante brasiliano. Addirittura scrivono che rischierebbe 25 anni di carcere per bacco, altro che Le Havre. Francesco Mantova, buongiorno. Sono io, buongiorno. C'è lei, buongiorno, dica. Grazie per essere stato convocato. Grazie a lei. Devo rispondere in merito un po' alla retorica che c'è sempre dietro al rugby nei confronti del calcio. Non protestano mai nel rugby per il semplice motivo che le regole sono talmente difficili da capire che non le capisce nessuno. Neanche i giocatori le dice. Questo mi sembra eccessivo. Io sono un appassionato di rugby. Mi sembra tanta roba che non la capiscono i giocatori, Francesco. E ogni anno cambiano, non si capisce più niente. La mischia, non la mischia. Ormai il pubblico assiste inerte, non vedi mai le proteste, non senti mai i fischi con la semplicemente perché nessuno ci capisce un H in quello che sta succedendo. la moviola è solo per meta non meta, per forza, quello è oggettivo. Sì. E così e sono tutti contenti, bevono birra, sono tutti contenti. Io sono sì. appassionato di rugby e beh, è un gioco completamente diverso, è un'altra cosa. Ma sì, ma non è corretto. È anche molto difficile, onestamente, fare un confronto di questo tipo. Se diciamo i giocatori di calcio sono un po' più cazzari, sono un po' più cafoni, sono. Il calcio, il pubblico del calcio certamente non ha lo spirito e l'eleganza di quello, insomma sono tutti discorsi che abbiamo fatto un sacco di volte, anche troppe volte. Semplicemente è una questione di gusti. Se uno piace il rugby va a vedere il rugby con tutto quello che ne comporta, beve la birra, non capisce le regole o le capisce e non ha voglia di protestare, alla fine va a casa più o meno contento. Se a uno piace il pallone, segue il pallone e sa benissimo che quello che c'è, che succede in campo, compresa la furbizia, la malizia dei giocatori, compresa l'ineleganza delle proteste continue, eccetera, eccetera, ebbene, ognuno si sceglie lo spettacolo che vuole, no? Un po' come scegliere la musica o come scegliere un film. Inutile fare dei paragoni che hanno, secondo me, pochissimo senso. Vabbè ragazzi, andiamo a casa, stasera vediamo la Roma, speriamo non ne becchi altri 7, eh? Dicevi, Piantanida? Ah, il trofeo Berlusconi, sì, ma il trofeo Berlusconi arriva dopo perché lo fanno vedere su Canale 5 in differita, quindi lunghissima serata di calcio in cui c'è da Roma, c'è un Bayern-Roma, così tanto per perdere tempo. 14:30, si parte tra poco. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo domani. Due, grazie Piantanida, autore di questo programma, Scaltritti in regia, Claudio Schettoni in redazione, io vado a casa, ciao. Te ne posso andare? No, non la faccio più, già caldo. Abbiamo fatto un grosso casino domenica. Avevo invitato degli sponsor in tribuna. E che cosa facciamo? Finiamo per fare la figura di una massa di poveri imbecilli. Voglio farvi una domanda. Qual è la cosa assolutamente necessaria per vincere una corsa? Beh, ovvio. Non sta zitto. Si deve concludere la corsa. Tim, lo so che Harry ha una grossa esperienza. Non dico che i suoi metodi siano antiquati, ma non guasterebbe avere un motore che non fondesse. Vedi, Cole, quando scali marcia e quel piccolo ago del contagiri va sul rosso e segna 9.000 giri al minuto, vuol dire che stai sbiellando. A stoffa, secondo te? Sì, che ce l'ha. Sa correre oltre i limiti delle gomme, del motore, del telaio, di tutto. Se quel figlio di puttana mi stesse a sentire, non perderemmo una corsa.